init for you. Init your music for you. Con contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97-800, Radio San Donà 102-200, questa è la voce nasale di Lele Terzariol ai microfoni di MFY. Per fortuna qualcuno mi salva e quel qualcuno è Alvise Favotto. Chi vive sperando muore, come si suol dire, nel senso che lo staff di Music for Youth continua a essere malatissimo, ma per questo motivo noi abbiamo qui quattro baldi giovani Terzariol. Ebbene sì, perché allora, innanzitutto prima presentarli, noi andiamo incontro a dei problemi gestionali grossissimi in questa puntata. Non sono intestinali grossissimi? Oltre a quello, okay. C'è la mia crisi nasale, a quanto senti, però sì. La baracca deve pure essere portata avanti. C'è il tuo mal di testa da campionati, a quanto mi dicevi prima. Abbiamo uno studio di registrazione nuovo, ci hanno rubato il tavolino, per cui ti ho più vicino del solito e su un altro microfono. Esatto, e soprattutto e il sudore comunque non diminuisce. Capisci che è critica la situazione, sì, anche stavolta. Perché, cioè, di solito sì, qua voi dovreste saperlo ormai, i nostri ascoltatori, di solito si tampona con dei sani Abre Magique sotto le ascelle. Oggi li abbiamo dimenticati. In più continuiamo a essere in 6 in una 3x2 e a questo punto potete capire i risultati. E a questo punto la domanda è anche, forse gli Abre Magique li hanno portati Sonoria? Potrebbe essere? Chiediamola loro. Sono portato gli Abre Magique? Massimo, noi abbiamo portato la puzza. Il famoso Abre Magique al sapore di puzza, nei migliori supermercati da domani. Sì, sai, ti ricordi quella pubblicità in cui lui diceva why mango? Mango, cicci, mango. Io l'unico mango che conosco è Remengo. Sonoria, buonasera. Sì, non ci siamo. Ciao. Ecco, questa è la voce nelle distanze dei Sonoria. Non ci siamo dimenticati di voi, scusateci, è che noi siamo soliti perdere tempo. Dimenticatevi pure, noi in sordina siamo qui e vi ascoltiamo. Visto che ci siete, anzi visto che ci sei, vuoi presentare tu la band al posto di fai girare il microfono come vuoi? Io sono Dino, il cantante del gruppo. Quello passo che porta la parola a Berto, chitarra. Mauro, batteria. Francesco, chitarra. Bravo Checco, ripassa il microfono al nostro buon Mauro. E poi c'è il carissimo Giovanni Manna al basso, che stasera dice di non volersi palesare. Cos'ha stasera? No, ha dei problemi sentiamo intestinali. Che cazzi ha? Anche lui. Anche okay. Lui. È bello sapere che non siamo sì, soli, vero? Non sei solo nel mondo, è una bella cosa da sapere. Devo fare delle domande obbligatorie Sonoria, le facciamo dopo, andiamo con un pezzo. A tua discrezione foto, questa sera sei tu che amministri un po' il tutto, perché io sono a mezzo servizio. Quindi io partirei con una prima domanda di rito. Una di un'intelligenza per cui tutto il mondo me l'invidia questa domanda. Perché vi chiamate Sonoria? Ma è un nome che è nato nel 2002 e senza nessuna senza nessun motivo. Nessun tipo di pretesa. Mi piaceva il suono del nome, poi è diventato il nome di cioè, una certa bambina. Lo sapete, cioè, che ve la giocate con una stessa band o presunta tale, perché vabbè, con solo una lettera in meno, cioè rischiate grosso. E il problema è che loro hanno avuto pure più successo. Sì, effettivamente, veramente abbiamo sbagliato le lettere. In realtà anche voi siete una boy band, ma molto più belli, secondo me. Guarda, sì, cioè, sì. Io fossi 15enne, io avrei un vostro poster a casa. Che bei momenti. Vero? Cioè, peggio, perché tu devi sapere che cosa fa Favotto con i poster. Ma e soprattutto pensa che ti troveresti la tua faccia nel paginone centrale di Cioè da adesso. Beh, old style comunque, anche Cioè, sì, il Cioè, sì. Viene da lontano, un po' come le ore come mese. Era Favotto, tu che le collezioni. No, c'è anche le ore settimana lei. Perché limitarsi al mese? Ascolta, noi prima di procedere con questi bei ragazzi qui presenti, che sì, se Dio vuole innalzano il regime estetico di questo 3x2 come dicevi, andiamo con il famoso pezzo proposta della settimana, espressione che non si tirava fuori fortunatamente da settimane. Sì, infatti sempre. Adesso andiamo con il pacchetto morbido. Famosa questione che gira nei porno, il pacchetto morbido. Il pacchetto morbido, come la risolvi? Cioè, c'è sempre, in questi casi, arriva sempre una domestica. È il famoso porno da San Diego, perché sì, questi softback arrivano da San Diego, hanno fatto una scelta pessima, cioè quella di chiamarsi The Muslims all'inizio. Sì, poi c'è stato l'11 settembre e lì non li hanno più fatti suonare in giro, e hanno detto, si capisce come mai. Forse è meglio che rivediamo le nostre scelte, sostanzialmente. Esatto. E allora ti chiami pacchetto morbido. Hanno licenziato un album, il titolo non lo sappiamo, non ce ne frega assolutamente nulla, non compratelo, io l'ho ascoltato, non è niente di che. Infatti però c'è questo buon singolo che è Down or Lang, che... Loving. A noi non dispiace. No, schifo non fa, unisce un po' gli Strokes ai Velvet Underground, che vuol dire bestemmiare sta cosa qua, perché un pochino quando tiri dentro i Velvet Underground i sonori a cui presenti fanno smorfie. No, posso capirli. Qualche modo per presentarli devo pur farlo. Esatto, cioè Wikipedia dice così, però chi scrive in Wikipedia, voglio dire, cioè possono essere anche gente... Anche al terzo sito al mondo per frequentazioni, oltre a casa tua. Sì, esatto, che ricordiamo che è il secondo sito al mondo. Esatto, buono. Di vaccate ne abbiamo dette, sul counter ben 6 minuti e 50 sul groppone, Down or Loving dei Softback. Dopo che si sono ravveduti dal famoso Muslim in una visione politically correct ad una marca di dildo, ringraziamo i Softback. Loro si chiamavano Muslim perché usavano mangiarli con il latte, i Muslim. Una battuta tristissima, per favore. Vai a raccontarle fuori all'oratorio con delle caramelle in mano, per cortesia. Sii costruttivo e fai delle domande ai sonori. I sonori a cui si stanno alzando, quindi meglio fermarli con una domanda. Anche perché partita una colletta per raccogliere la nafta e usarla nei tuoi confronti. Esatto, la Cerini li porto io. Allora, bene, innanzitutto parliamo del motivo per cui siete qui, che è, certo, avete pubblicato un disco. Un nuovo disco, insomma. Oh, questo Divora. Che come dire? Nasce Divora? Beh, Divora parte in realtà da distante, dal nostro primo disco, che è del 2008, Orizzonti geneticamente modificati, in cui in copertina c'è una bambina con le ali. Che raffigura? Che raffigura... Cosa sì, mi significa? Che raffigura il bisogno di cercare nel volo, nelle illusioni, qualcosa di... una via di sfogo, una via di scampo. Mm. In questo nostro disco, per presa di coscienza, insomma, questa bambina decide di togliersi le ali e se le mangia. Divora. Se le divora, perché divora comunque vuole essere un inno alla vita. le divora, chiude le proprie illusioni, le proprie paure in un palloncino, lo lascia volare via e parte per un disco, per un viaggio musicale e di vita abbastanza più reale, insomma. Quindi è un po', vuole essere una reazione, un cercare di vivere da realtà. Un viaggio che si dispiega in ben 9 tracce. 9 tracce. Quanto sì. Io e Favotto non potremo mai fare, presumo. No, anche perché il suono di un campanello dopo la prima traccia ti diventa un po' ripetitivo. Potevamo chiamarci Testimoni di Geova. Esatto. Avevo anche un o anche venditori di enciclopedie. O dei Folletto. Esatto. Se Dio vuole, ci sono i Sonori a risollevare queste sorti, oltre che lo studio. Volete dirci qualcos'altro su tutto questo che bel prodottino che io ho in mano e che i nostri radioascoltatori non possono vedere? Che dire, novembre 2010, mixato e masterizzato anche suonato in certe cose da Andrea Ghion, prodotto da Andrea Ghion e Sonoria, distribuzione Capannone Records. E a mano. Sì, è un lavoro proprio artigianale come rock and roll. Alla fine, insomma. Beh, Capannone Records chi è? Capannone Records è una piccola associazione del Trevigiano, portata avanti da dei volonterosi ragazzi di una band che si chiama Cupido Motel e che promuove comunque in questo momento giovani in realtà, gruppi emergenti della zona. Facciamo un po' di gossip, ma la vostra relazione amorosa con i Cupido Motel e con che è nata, come nasce? No? È nata casualmente anni fa ad un festival a Tessera. Io ho conosciuto i ragazzi e lì ci siamo scambiati i CD. Il lavoro di Cupido Motel mi era piaciuto molto e si è instaurata questa amicizia che poi è diventata una collaborazione musicale. Nel frattempo è nata la Capannone Records e da lì se sono cose sì, fioriranno. Sì, sì. Andiamo a presentare il vostro pezzo, Lele, le tue agili manine lì. Parte di me si chiama. Parte di me che è il singolo. Sì, in un certo senso sì. È il radio friendly che si palesa. Diciamo che il disco è diviso in pezzi che parlano un po' del sociale e pezzi più introspettivi che parlano di me, quindi un attimo più intimi. Questo più, immagino cada nella parte seconda di me, possibilità. Esattamente. È un pezzo che parla appunto di esperienze. Mauro fa autore di dischi e di testi, scusa. Sei tu quello che scrive? Sì, i testi li scrivo io, sì. Andiamo a ascoltarci il singolo, perché dai, chiamiamolo così. Sì, sì, alla fine ogni band deve avere un singolo da lanciare prima del prodottone. Sì, sì, il nostro primo singolo. Parte di me, sì. Buono, questa è RSD 102.2, Radio Sherwood 97.800. In studio con noi i Sonoria. Parla, crede così, vuole di più e sbaglia, divorando me. Vive a metà, ama a metà, basta. E così parte di me manca. più finirà divorando te, te. Credi alla mia buona follia e basta. Come l'acqua che scorre dritta verso la foce, cambia, cambia, oltre la luce, disegnava i confini di ogni cosa, la fine basta. È la sua voce, come l'acqua che scorre dritta verso la foce, cambia, cambia, dove la luce, disegnava i confini, se ogni cosa la basta. Vedere, volere, pensare, sentire. Vedere, volere, pensare, sentire. Sperare, cambiare, per non finire mai. Per non finire, per non finire, per non finire, per non finire mai. Diamo a Dino quel che è di Dino. I testi sono di Dino, non di Mauro. Mauro suona la batteria. Caspita. Bene. Sì. No, scusate. Ad ognuno il suo. Perché c'è stato un qui pro quo, colpa mia, che confondo sempre i nomi. Favotto, dovresti castigarmi. Io penso che tu paghi già vivendo, secondo me. La vera morte è la vita. Bentornati in studio, questo è Music for You, fa Radio Share 97800, Radio Sandonà 102.2. L'avete già capito che quest'ora di programmazione fa schifo come tutte le altre. Favotto, grazie, fai qualche domandina utile come al tuo solito. Passerei alle classiche domande stile Marzullo, ossia anche questa me la invidia il mondo. Ci avete detto che siete al vostro secondo album, vostro, yes. Innanzitutto, questa band mi cambia la line up. La line up svola. Si è modificata, sì, nel tempo, dal 2002 in qua. Abbastanza, ci sei rimasto, sì, solo tu alla fine. Solo il soletto. Cioè, i migliori. Sono rimasto io e. Hai pianto? Di... No, no. Sì. Anzi, i cambiamenti molto spesso fanno bene. Insomma. No. Una cosa seria che avrei da domandare è: il suono ne ha risentito? Come è cambiato nel tempo? Cosa hanno portato queste simpatiche faccine? Questi psicolabili? Beh, diciamo che già ascoltando il primo CD e ascoltando questo ci si rende conto del fatto che siamo maturati come gruppo. E appunto il primo disco era un lavoro fatto da persone differenti che transitarono al tempo all'interno del progetto. In verità poi da 4-5 anni a sta parte siamo rimasti noi 5 e quindi questo CD è molto più compatto nel suono. Perfetto, a questo punto, detto ciò, ci dicevi prima invece che tu ti occupi dei testi, che sì, e lì le tematiche spaziano. Intanto Lele si mette un dito nel naso, io lo dico anche per tutti quelli che ci radioascoltano. Comunque, invece, per la musica come vi arrangiate? Beh, noi facciamo molta improvvisazione in stanza, jam, magari nascono le idee e da lì registriamo. Registriamo quasi tutte le prove e quindi la melodia, la parte della melodia del cantato e i testi arrivano in un secondo momento. Beh, sul feeling proprio del... E ve li riascoltate tutte? Cioè, non state Sì. Io sì, ascolto molto le prove. Ti dico che quando io sistemo questa puntata, questa come tutte le altre, sto male. Cioè, oltre a sentire me che sto giro... Classico latte alle ginocchia. Cioè, questa volta in studio con noi Alvise Favotto e Nicoletta Pacciaroni per la voce, per cui capisci che ci sto male. Uno ascoltarsi tutte le prove, io se Dio vuole registro un'ora con questo cefo qua. Voi immagino suonate per 20, cioè, Teleton tipo, no? Facciamo... 2-3 orette di prova alla settimana, io me le ascolto volentieri, anche perché ascoltando che impari a capire dove sbagli e dove devi. Tra l'altro, io volevo chiedere, quindi, se fate molto in sessioni in cui vi trovate tutti, eccetera, quindi ognuno apporterà qualcosa. Le vostre influenze sono molto diverse o più o meno siete tutti lì? Sì, magari in questo possiamo anche... Beh, sì, io sì. Principalmente in quanto... diciamo che vengo dal rock, cioè, in quanto testi in italiano, da quel punto di vista vengo dal rock italiano degli anni 90, quindi da quelle band in Italia che, sospinte dall'onda di Seattle, hanno lasciato dei bei segni, posso dire, che ne so, Karma, Ritmo Tribale, After Hours, Marlene Kunz, e come identità di testi o comunque nel modo di scrivere, ecco. Passo. Sì, beh, alla fine penso sia la forza del gruppo, ecco, mentre Dino parlava mi veniva in mente proprio questa cosa, no? Che forse la nostra forza è proprio il fatto di venire da esperienze diverse, quindi Dino dal rock, un certo tipo di rock indipendente, forse dal prog anche anni 70, cose che conosci solo tu forse, Dino, no? Ok. Anche dal pop, dice Dino. Beh, sì, in effetti sì. Certi luna pop più recenti, sì, mi smetti, appartengono. No, beh, scherzo. Luna pop più di nicchia. Sì, sì, quei luna pop per pochi, diciamo, che pochi conoscono. Sì, no, scherziamo luna ovviamente. Poc. No, ma è bello quello che, non so, quello che noto io quando suoniamo è proprio il fatto che pur piacendoci cose completamente diverse, alla fine riusciamo sempre in un modo o nell'altro a trovare un denominatore comune, che magari non rispecchia al 100% i gusti di ognuno di noi, perché poi alla fine è quello che riusciamo a produrre un po' una sintesi di quello che ci piace, no? E tutto questo crea un minestrone buonissimo e saporitissimo. La valle degli orti quello della, esatto, Findus vi invidierebbe tantissimo. Bravissimo. Gli altri due li interroghiamo dopo aver messo il pezzo, perché sennò andiamo lunghi. Va benissimo. Ci diluiamo così. Diluiamoci come il minestrone, voglio dire, c'è una componente d'acqua, ce l'avremo anche noi. Il dado l'abbiamo messo. Dado è tratto, come dice ogni casalinga. Vabbè. Non so se non vi siete fate influenzare dai Supergrass, immagino anche di no, però il prezzo potrebbe piacervi. Vedo teste che si scuotono e quindi direi proprio di no. Direi che questa è una crisi epilettica collettiva, quindi ci sono le teste che si scuotono. I Supergrass piacciono molto, ecco. Ma tutto quello che è inglese. Ma io lo sapevo già, è per quello che li ho messi in playlist. Ma grande. Vuoi presentarci tu allora questo pezzo? Non mi ricordo il nome del disco, forse... Guarda, te lo dice Wikipedia Volante, l'album è I Should Cuckoo. 98. No, dillo con la pronuncia, avete 98, per cui... 98. Esatto, loro sono i Supergrass. Vuoi farlo in maniera ancora più radiofonica? Vuoi dire siamo su Music for Youth, eccetera, eccetera, inventati qualcosa? No, mi fai no con la testa, lo faccio io. Prego. Sempre con la voce di Nicoletta Pacciaroni dagli studi di Music for Youth, questi sono i Supergrass ed ora andiamo ad ascoltarci Tutto Bene. All right. Right. Alright, 97.8 Radio Sherwood, 102.2 RSD, questo è sempre Music for Youth, noi siamo sempre in compagnia di un febbricitante terzariol, ma soprattutto dei Sonoria. Noi qui in questa baraccata si stava parlando di influenze musicali, abbiamo sentito due quinti della band, ne abbiamo altri due quinti perché un quinto non è pervenuto e continuiamo con la nostra tavola rotonda. Certo. Mauro. Sì. Mauro, la batteria, voglio dire, e non si sta parlando di Mondial Casa, quindi, allora, tu... Ho iniziato con quella. Esatto, vendevi anche una bici in più. Tu ti senti riconosciuto in quello che hanno detto? Hai qualcosa, hai qualche tipo esperienza musicale prima dei Sonoria? Sì, personalmente sì, però non a livello di album, di scrittura propria, ecco, solo di cover. 5 anni fa, forse anche di più, sono entrato con il progetto e diciamo che ho molte affinità sia a livello di influenze sia a livello anche di pensiero stesso, cioè mi piacciono i testi e mi ci ritrovo, e comunque questo credo sia una linea comune di tutti quanti, perché altrimenti l'arrangiamento non sarebbe come poi si può ascoltare, soprattutto sul secondo album. Diciamo che il primo è forse più immaturo, però è più viscerale, cioè più vissuto, più istintivo, ecco, esatto. Il secondo, secondo me, è molto più profondo, ecco, più lavorato, e secondo me è un gran bel prodotto, ecco, insomma. Ma complimenti, si vede che hai iniziato in Mondial Casa, perché veramente, guarda... Cioè, vendendole veramente, cioè, c'è cosa, ti c'è, manca, ti manca il vocabolo, sì, c'è pathos, c'è... sì, esatto, c'è pathos, hai ragione, finalmente una parola ben detta, e non è l'attaccante del Milan con una S in più, esatto, cioè, interroghiamo anche... di pato, esatto. Interroghiamo anche Francesco Mattiuzzo, sì, conosciuto di più come lo zio, che poi chiudiamo, sì, ormai anche mia madre mi chiama così. Ti chiama zio. Prego zio, dici qualcosa, esprimi te stesso, puoi dire: salve, sono Francesco Mattiuzzo, ho problemi di alcol. Cioè, visto che ormai è una tavola rotonda, non posso dirla questa cosa in realtà, per ovvie ragioni, insomma, che tu sai. Privacy. Anche Favotto, con cui facevamo le gite alle superiori. Fior fior di gite io e Francesco. Vabbè, non stiamo a raccontare le vostre vite private, i ritorni in pullman, cioè, è una trasmissione radiofonica. Soprattutto i ritorni in pullman. E soprattutto i ritorni in immaginavo. Anche lì fior fior di ritorni in pullman. Sì, si parlava dei Sonoria, per cortesia continuiamo su sta linea, preferibilmente. Zio. Come influenza, io ascolto un po' di tutto, comunque diciamo principalmente il rock, mi leggo un po' anche con quello che diceva Dino rispetto al rock anni 90, che forse è un po' il denominatore comune di tutti, anche se magari a me piacciono di più i Soundgarden, a Dino non... dice che è il gruppo di Seattle che gli piace di meno, però non importa, insomma. Questo è l'unico, è il disco che ho fatto con i Sonoria, nel senso che nel primo io non c'ero. Quello che un po' mi piace di più rispetto a questo disco è che ci sono anche degli aspetti un po' più psichedelici, forse all'interno, come effettistica, cose di questo tipo che ogni tanto ci buttiamo dentro. E Andrea Ghion, che ha prodotto il disco, ci mette Leslie dappertutto, quindi se voi ascoltate il disco lui lo metterebbe anche sulla voce tipo Leslie, quindi comunque è una buona scelta stilistica dal, certo, mio punto di vista. Ma andiamo adesso alla la prima traccia scelta da voi, che sono questi Teatro degli orrori. Esatto, Teatro degli orrori, che tra l'altro Dimensione circolare di Music for Youth si conferma, perché abbiamo messo i One Dimensional Man, siamo andati al concerto del Teatro degli Orrori, abbiamo salutato Dario Perissuti alla batteria, sì, i Super Elastic Bubble Plastic hanno suonato a Revolver e abbiamo ospitato Norma alle 20, per cui, cioè, siamo pressoché a posto rispetto, sì, a questa cosa. Sì, sì, cioè, ci possiamo ritenere soddisfatti. Tra l'altro, il Teatro degli Orrori, perché questa scelta? Ma intanto per la scelta di mettere una canzone italiana all'interno della scena del rock indipendente italiano, a cui comunque noi aspiriamo, insomma, comunque i Sonori hanno sempre cantato in italiano, continueranno a cantare in italiano, e un po' anche per la canzone stessa, nel senso che è una canzone dedicata a Kensaro Wiwa, che è un poeta nigeriano che è stato ucciso, insomma, faceva parte di un così, di un movimento di protesta per i diritti della sua popolazione, e ci leghiamo un po' a questo perché comunque i testi di Sonori hanno anche degli aspetti di protesta sociale, e ci faceva piacere inserire anche questo. Visto il sociale, posso dire che il Teatro degli Orrori rientra in una compilation che era stata curata agli After Hour, che è Il Paese è Reale. Io ve la raccomando, a me è piaciuta. Noi andiamo a ascoltarci il Teatro degli Orrori. Il pezzo scelto è A Sangue Freddo, l'omonimo del secondo album licenziato alla Tempesta Dischi. Questa è Music for Youth e questo è il pezzo portato dai nostri ospiti Sonoria. Teatro degli Orrori A Sangue Freddo, MFY, Radio Sandonà 102.2, Radio Sherwood 97.800, Alvise Favoto, sei interrogato in cattedra per i contatti. Gentile ascoltatore di Music for Youth, vorresti che d'improvviso una pedaliera per chitarra si materializzasse nel tuo soffitto e ti scendesse placida placida sulle ginocchia mentre sei in bagno che leggi la Gazzetta dello Sport? Chiamaci allo 0421 560993 o mandaci un fax allo 0421 560994 e io e Lele te la caliamo dal soffitto con delle corde. Altrimenti la vuoi lanciata dalla finestra? Basta una mail a radiochiocciola@radiosandona.it. Per qualsiasi altra informazione / collaborazione / idea di scaraventarci qualcosa in testa, www.musicforyouth.wordpress.com è il blog dal quale scaricare questa puntata in podcast o ascoltarvela in streaming, così come dalla pagina di Radio Sherwood omonima del nostro programma. Devo aggiungere altro, Favotto? No, però io voglio spezzare una lancia a tuo favore perché è una voce sensualissima. Dici? quando hai del catarro. Cercherò di tenermela allora. Ah no, c'è anche un'altra cosa, musicforyouth.tumblr.com è il blog delle nostre porcate, sostanzialmente delle B-side, qualche consiglio, qualche foto brutta mia del conduttore Ivi presente al Visi Favotto, poco altro. Potete divertirvi però. Tra l'altro anche uno sfondo già tra il giallo e il marrone che tanto bene ha fatto alla nostra nazione intera. Massimo Parchi invece adesso in programmazione mentre i Sonoria prendono fiato. Massimo Parchi è la buona occasione per anticipare quello che ci sarà nella prossima puntata. Ebbene sì, siamo capaci anche di pianificare una puntata più in là di quella che state ascoltando. Sì, nella prossima puntata vede come ospite Boogaloo Robert, ossia Roberto, un nostro amico che dopo anni e anni di DJing decide di aprire un locale in quel di Milano, si chiama Moon Club, e ve lo consigliamo perché è un bel posto dove andare. E chi ha ospitato il Moon Club di recente? Il cantante dei Maximo Park. E la serata prima il Lombroso, per cui un ottimo weekend per il Moon. Tra l'altro nella stessa puntata avrete la possibilità, miei cari, di ascoltarvi un'intervista flume, come direbbe Bon Iver nel suo ultimo CD, a Badly Drawn Boy. Sì, condotta da Alvise Favotto in inglese, con le sincere traduzioni abbastanza schifose di Daniele Terzariol. In italiano. In italiano. Beh, beh sì, cioè, glielo traduci in russo, voglio dire. Cioè, perché, con che utilità? In latino traduciamola. Ti ricordi che siamo andati a ascoltarci Maximo Park, io e te? Sì. Tra l'altro, Maximo Park è luogo di incontri e rivoluzioni cubane a L'Avana. Ah, e lo dice una nota sul loro sito. Pensavo fosse il classico parcheggio dietro alle poste. Vabbè. Ebbene, no, mi dispiace. Noi andiamo ad ascoltarceli. Il pezzo è Potrebbe stare comodamente dietro alle poste, perché By the Monument, mi pare sia questo il pezzo. Sì, è assolutamente questo, dal loro secondo album. Noi eravamo andati a sentire By the Monument, il caffè grande. Esatto, bizzin bizzin qua a San Donà. Eravamo andati a sentirceli al tempo di A Certain Trigger. Esatto. Un album che insomma aveva avuto anche il suo successo, purtroppo carriera in calando, ma comunque ci piacciono comunque, in ogni caso, no? Sì, sì, sì, assolutamente sì. Anzi, gli auguriamo un piacevole ritorno. A voi piacciono i Maximo Park? Potete anche dire di no, eh? Sì, sì, no, i nostri ascoltatori questa cosa la capiscono. No, io li conosco poco personalmente. Non è che... Anche noi in realtà, guarda, cioè non è che cioè, tu pensi, ma... Prima di dire troppe schifoserie, direi che possiamo andarceli ad ascoltare. By the Monument dei Maximo Park, questa è la nostra schifosissima promozione ai locali nuovi che fortunatamente sorgono nei nostri territori veneti. Esatto. You'd like to see me again, and then it all unraveled. I heard that you were seeing someone not such an insignificant other. It seems my moves were far too swift in life. Some things are worth the effort. I touched the place where your hair had been. I put on the shirt that you left round mine. Defacing pictures of famous people on the train, standing by the monument just waiting for the rain. In my wallet with your photo booth smiling eye, wearing my waterproof jacket. Posterity has hold of us now. Am I just waiting for the next chapter? We sleep tonight in separate towns at dusk. We see our disparate futures. I tore a sock to bind up your golden hair. We found a hotel bar to sustain our last night in vain. Defacing pictures of famous people on the train, standing by the monument just waiting. Teardrops fall. No more late night calls where teardrops fall. Teardrops fall. Standing by the monument just waiting. I'm just passing my time with you on my mind. By the Monument dei Massimo Park, siamo rientrati a Music for Youth e parte il momento culturale. E ora non sembrerà che sto per leggere, ma sto per leggere. Allora, si comincia da questa grande storia. Una leggenda degli indiani d'America racconta di un porco spino che riesce ad ingannare gli altri animali piantando un albero sotto di sé, in modo da poter lanciare verso il basso i suoi aculei per ucciderli. Punto 1. Andiamo al punto 2. Nel libro di Douglas Ofrastred, dal titolo Mate Magical Themas, si parla di computer, frattali e ricorsione, conosciuta nel gergo informatico come struttura d'albero. Questo libro, molto libero, come diceva Baresi, a pagina 409, contiene un'immagine di un albero infinito di porcospini per illustrare i frattali. Favoto, decidi tu qual è l'origine del nome dei Porcupine Tree. Ma io non capisco la prima, ossia lui, sto sì. Porco spino, si mette sull'albero per puntare gli aculei verso gli indiani che stanno nel basso. Bravissimo, ora non farmi più domande perché allora, no. L'ho letto ma non me lo sono ricordato. A logica io mi domando, quindi il porco spino, se gli aculei vanno verso il basso, il porco spino sta a zampe all'aria. Esatto. Come i cimici quando li giri. Bravissimo. Che bei momenti. Se gli metti una fetta biscottata sulle zampe, cade dritto come per i gatti. Sai che c'è quella teoria del moto burro felino, non te la spiego. Sono anche fan in Facebook. Anche di quella tu? Cosa oh, lì. Siamo in due, benissimo, e non lo sapevamo. Non è giunta a niente questa discussione, però era un buon momento di ilarità generale sì. Per introdurre i Porcupine Tree. Il pezzo portato dai Sonoria. Oh, adesso annunciamolo. Zio, Black per piacere. Styles dei Porcupine Tree. Esatto, bravissimo. Questa era la presentazione Radio Friendly. Zio, per piacere, motivaci questa scelta. Dai un tono di serietà a questo ragazzo. Oh. Diciamo che ci sono un po' di influenze anche dei Porcupine Tree all'interno del nuovo album dei Sonoria, soprattutto rispetto un po', come dicevo prima, alla parte psichedelica. Io ce l'ho un po' fissa, no, sta cosa. Non abbiamo capito. E soprattutto perché mi sono comprato l'ampli come quello come chitarrista dei Porcupine. Ecco. Ora si spiega tutto. Non è che voleva portare buona musica qua. Era una cosa molto autoreferenziale. Una battuta. Ritorna sulla vendita di pentole. Vogliamo sparare altre porcate? Non so, ditemi voi. Come al solito sono nelle vostre mani questa sera. Ma chi li ascolta qui dentro i Porcupine Tree? Penso un po' tutti. Ecco. Un po' tutti. No, Mauro fa no. Mauro con la dice mano. No. Cioè proprio si rifiuta e sembra anche abbastanza sicuro del fatto. Vabbè, in realtà ci trovo delle cose in comune anche magari con certi pezzi nostri. In generale, diciamo, ai Porcupine Tree piace lavorare un po' con i tempi, ecco, questi cambi di tempo improvvisi che danno anche un po' il senso di perdere come un po' la cognizione del pezzo, no? È quello che abbiamo cercato di fare anche noi nel nostro ultimo album, per cui penso sia un punto, qualcosa che ci accomuna, ecco, con i Porcupine Tree, per cui penso che sia una scelta azzeccatissima. Mi guardate così perché è l'unica cosa intelligente che è stata detta negli ultimi 10 secondi, però va benissimo. No, ma anche negli ultimi 50 minuti, perché di mezzo c'è la mia ultima settimana. Mi sento un po' a disagio in questo mio ruolo di vabbè, però va bene così. Bene, ci falciamo tutti da soli, io penso perché, a fare il fine. Ma perché falciarci? Mettiamoci su un albero a pancia all'aria e facciamoci tirar su aspettando che degli indiani ci corrano intorno. Abbiamo svelato il motivo del perché gli indiani si facevano in narghile. Cos'era il calumè della pace? Chissà esatto. Cosa ci mettevano per vedersi i porcospini sugli alberi. Non lo so, ma devono essere proprio delle cose buone. Fatemi sapere chi è lo spacciatore. L'albero di porcospini e gli occhi più neri su Music for Youth. Questi sono i Sonoria in studio con noi, Radio Sherwood e Radio San Donà. Yeah. Ovviamente in accoppiata. I got one loose inside my head. I got books that I never ever read. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams are dead. Swim with me into Blackest Eye dei Porcupine Tree. Siamo tornati in Music for Youth. Se Dio vuole, io vorrei del miele, perché ho dei problemi di gola. Vuoi andare a prendere un cestino, Bubu? Esatto. Sì, la risposta è sì, caro Yogi. Praticamente stiamo per chiudere ed è tempo di fare i ragazzi seri come al solito, come dico ad ogni santa puntata, soprattutto perché così i sonori si ricordano che devono far presente i fasti di Feltre. Eh beh, sì. Una seratona a Feltre in cui i Sonoria sono protagonisti, in quella del Palaghiaccio no. No, sabato 20 abbiamo suonato al centro culturale e sociale Desir di Feltre. È stata una bella serata. E come diceva quel gran gota della cultura di Germano Mosconi, mm-hmm, i gabuta parari a tutto. Esattamente, sì. C'era anche il maestro Don Nascimento tra la folla, ha lanciato compresa Vanamarchi. Esatto. Lanciato dei monili porta fortuna per tutti, è stata una gran bella serata. Adesso ci sarà, mi dicevi, la presentazione ufficiale del disco. Sì, presenteremo a gennaio 2011 questo nostro nuovo lavoro Divora. La data è ancora da stabilire, ma il luogo è Vittorio Veneto, comunque tramite Capannone Records tutto ciò. Quindi su www.capannonerecords.it trovate brani da scaricare e trovate le date future. Oppure su www.sonoriamusic.com, che è il nostro sito ufficiale. Il motivo è che la data non c'era, perché così la gente si entusiasma e va nel loro sito internet. Esattamente. L'aspettativa che ovviamente devi avere, perché cioè, se i Sonori escono con un disco, mica cotica. Cioè, mica stare come me e te a guardarci la TV il venerdì sera a favotto. Con dei coni di segnalazione in testa. In autostrada, esatto. Ormai ci conosciamo sin troppo bene e gli hobby sono quelli. Esatto. Cioè, c'è sempre uno che si porta una TV da campo, non capisco come mai. Ora, come accade nelle migliori trasmissioni televisive, volete salutare qualcuno a casa, sostanzialmente? Così? Avete parenti in bello? Premi. No, beh, salutiamo di sicuro Capannone Records, tutti i ragazzi, il nostro caro Giovanni che non c'è, Andrea Ghion, che dire? Volete fare un giro di microfono per salutare? Sì, non sì, so, sì, è molto Maria De Filippi, ma, e non l'ho mai fatto, per cui è l'occasione buona. Passo per ad Alberto. Farlo. No, vabbè, un saluto e un ringraziamento doverosissimissimo ai nostri fans, a tutti quelli che ogni volta vengono a sentirci i nostri concerti. E sono tanti e ci vogliono un gran bene e noi vogliamo benissimo a loro. Quanta meraviglia in queste poche parole. Sentiamo Mauro che... Ma niente, si può fare... Beh, sicuramente Giovanni lo ricordiamo ancora che non c'è questa sera. Questa sera Samir, il nostro amico e fotografo ufficiale. E poi niente, beh, ringraziamo un'altra volta Andrea Ghion, perché lo ripeto, per chi avrà, lo dico con senza... Sì, con modestia, ma chi avrà la fortuna di ascoltare questo album, secondo me si accorgerà del gran lavoro che è stato fatto da Andrea e poi anche da noi, insomma. Sì, anche perché se voi non ci mettevate un po' di manine, insomma, voglio dire. Zio, tocca a te. Zio! Ringraziamo Radio Sandonà a questo punto. Oh! Ma noi ringraziamo voi, vi vogliamo un sacco di bene. Grazie veramente, vi siete ricordati che siete in studio con noi? Stavo aspettando questo momento, altrimenti c'è il classico badile dietro la porta per punirvi ai microfoni abbassati. No, zio, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, beh... Non essere timida. Che hanno ringraziato un po' tutti quelli che hanno collaborato con noi. e soprattutto la Capannone Records, che in questo momento sta un po' cercando di promuovere la nostra musica, ma anche quella di gli altri gruppi che comunque credono nel fare musica propria, e di questi tempi è un po' faticoso riuscire ad andare a suonare live in giro. E quindi un applauso a questi ragazzi che non prendono una lira per fare questa cosa e ci danno una mano, insomma. Una domanda estemporanea, se abbiamo un minutino. Vai, ce l'abbiamo. Prenditelo. Un minutino. Vorreste consigliare un gruppo emergente di vostri amici, qualcuno che a voi piace particolarmente, che gira nelle nostre zone e che vale la pena di essere visto, secondo voi? Potete anche dire di noi che sono tutti ciarlatani, non preoccupatevi, vi difendiamo noi. Prendete la decisione, guardate che è una risposta seria, per cui... Lasciando una tese o possiamo spostarci? Potete ovunque. Spaziare ovunque, l'orchestra Ruspa è già stata scelta, per cui ecco almeno quello. Beh, secondo me i Cupido Motel sono un gruppo sicuramente da ascoltare dal vivo, okay. Interessante, sì. Bon, allora li chiamiamo prima o dopo, dai, questi sì. Cupido Motel. Chiamiamoli anche noi. Vorrei vedere che faccia hanno, perlomeno. Yes. Sì, anche perché ti chiami Motel. Due pensierini io su di te li faccio. Va bene. E Motel non è il nome dei Phoenix, perché non si chiama Phoenix Motel, ovviamente, no. Però dovevo prenderli in... La frase Motel non è il nome dei Phoenix, è qualcosa di bello. Comunque non stiamo parlando né dei Cavalieri dello Zodiaco, c'era quello lì e la Fenice, giusto, che si chiamava, esatto, Phoenix, sì. Né di che cosa, boh, non lo so. Cioè... Né del Teatro di Venezia. Esatto, nel famoso Phoenix Teatro di Venezia, grazie per avermi salvato in corner, Favotto, ma della band francese, quella lì di If I Ever Feel Better, che abbiamo scelto per chiudere questa puntata, però con un pezzo che invece va a chiudere il loro ultimo album, che è Wolfgang Amadeus Phoenix, si chiama Armistice, che è quello sostanzialmente che io chiedo con te ogni puntata, l'armistizio. Sì, esatto, una sacrosanta bandiera bianca e una fine delle ostilità. Sotterriamo l'ascia di guerra e mettiamoci tutti sopra un albero puntando i nostri aculei verso il basso. Un ringraziamento ancora ai Sonoria per essere stati con noi, è stato bellissimo avervi qui. E niente, vi rimandiamo alla prossima puntata, magari, cosa dire, se Lele sopravvive, ovviamente. Sì, io cerco di sopravvivere, intanto mi sotterro come l'ascia, ma sottoterra, basta, a titolo definitivo per una settimana. Sotto la neve come i galli cedroni. Borsa d'acqua calda per me, per te un aerosol, spero, di Triellina. Esatto, sì. Questi sono i Phoenix dall'album Wolfgang Amadeus Phoenix, Music for Youth, alla prossima puntata.